La grande preoccupazione che viviamo da molto tempo ovviamente per il nascere e lo svilupparsi di queste forze fasciste, ma fasciste davvero, si impongono a noi dell'ANPI, ma insieme a noi ci sarà anche l'ARCI, la CGIL, la CISL, la UIL, Libera. Siamo davvero in tanti che diciamo no a queste manifestazioni su una città come Bologna, città medaglia d'oro, che non può essere offesa da queste persone. Ieri, se non sbaglio, lei ha parlato anche di vigliaccheria. Sì, ho parlato di vigliaccheria perché sono persone che ritengo vigliacche anche, sì. Pienamente convinta. Spesso queste persone, o comunque nel dibattito politico, si dice, beh, comunque partecipano regolarmente alle elezioni, fanno parte del gioco democratico, quindi forse qui sta il punto. Esattamente, il punto è proprio questo, ed è quello che noi come ANPI chiediamo con forza e con determinazione a tutte le forze politiche che si riconoscono nei valori della Costituzione, che intervengono e provvedano a limitare la possibilità a queste forze di presentarsi, come in questo caso, in campagna elettorale sulle nostre piazze. Lo chiediamo con determinazione perché lo riteniamo un oltraggio non solo a coloro che hanno dato a noi la possibilità di essere persone libere e la possibilità di poter esprimerci liberamente, così come è stato offerto a loro, ma poiché usano in maniera così grave la loro libertà, che va a danneggiare, i fatti di Macerata lo dicono con molta chiarezza che cosa sono questi gruppi fascisti, quindi credo che davvero sia giunto il momento di non fingere, di non soprassedere, bisogna intervenire con il massimo dell'urgenza. Dal punto di vista giuridico costituzionale non ci sarebbero i margini per sciogliere queste organizzazioni? Sì, guardi, non è compito di un'associazione pur forte come quella dell'ANPI, credo che sia la magistratura che debba vigilare e debba verificare chi può presentarsi alle elezioni e chi non può presentarsi alle elezioni. Io vorrei che venissero letti davvero gli statuti e il riconoscimento, vogliamo che queste persone dichiarino di essere antifascisti, di riconoscersi nella Costituzione. Questo devono dichiarare e questo la magistratura deve verificare. Dunque l'ANPI scende in piazza, le faccio un'ultima domanda a proposito di Macerata, perché la scelta, insomma, anche della sua organizzazione a livello nazionale, insomma, di non partecipare a quello che è stato il corteo di sabato scorso ha creato anche un po' di malumore. Ci può spiegare? Lei condivide la scelta nazionale o... Ho condiviso la scelta nazionale pur con il rammarico della notizia, insomma, no? Quindi tutti siamo rimasti sconcertati, io compresa. Poi le ragioni hanno, le buone ragioni di rispetto nei confronti dell'istituzione che ci chiedeva di non andare, ha fatto sì che abbiamo rinunciato in quel momento ma avremo comunque l'occasione di manifestare, come tutti ormai ben sanno, il giorno 24, che non sarà una manifestazione di recupero alla giornata mancata a Macerata, ma è una giornata che avevamo già programmato e che sottoscriverà ancora con più determinazione, perché sono 23 le sigle che hanno sottoscritto il punto mai più fascismi. La giornata del 24 sottolineerà mai più fascismi. La tanta gente che è scesa in piazza a Macerata le dà, come dire, una speranza anche che ci siano ancora gli anticorpi antifascisti in questa società? Io mi auguro che questi anticorpi aumentino, perché non bastano, purtroppo lo abbiamo verificato in questi ultimi anni, insomma, no? Che questi anticorpi non bastano, quindi dobbiamo far sì con il nostro esempio, con la nostra tenacia, con la nostra resistenza, che dobbiamo far sì che questi anticorpi aumentino davvero, davvero tanto, perché il pericolo è veramente alto, molto alto.